Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. E allora che fa? Concilia? Ma come si permette? Tony, quando è arrivato? Un'ora fa, col mio aereo personale. Aereo personale? Ma come sei combinato? Mi pare che sei arrivato a cavallo. Ne ho tre di aerei, un Boeing per i viaggi lunghi, un Trident per mettere i bagagli e un Caravel per fare il weekend. Mezzica, ma allora successo facisti in America? Sì, un successo grandioso. Eppure mi pare un poco deluso. E anche scornacchiato. No, Concilia, te lo posso dire. Faccio tutta sta manovra per le tasse, no? Ah, il fisco. A proposito, la tua signorina Giulia... lo so. Cornutissimo ti fece, eh? Si è sposata. D'altra parte è colpa mia, non mi sono fatto vivo per tutto questo tempo, che vuoi? Le donne, ma le donne non sanno aspettare. Gli amici invece sì, e io non vedo l'ora di riabbracciarli, quei due straccioni. Ciao, Concilia. Salvatore, Salvatore Lopese mi chiamo, no, Concilia! Certo che nessuno può scegliere quando morire, ma morire a Roma la sera del ballottaggio in un confronto politico per la conquista del municipio, così periglioso, così singolare, così privo di fantasia e così carente di persone che vanno a votare, non è proprio la condizione migliore. E quindi noi questa mattina, proprio per riscattare questa grave lacuna, parleremo di Little Tony, morto ieri notte. Giuseppe Sansone. Buongiorno. Noi cosa abbiamo sentito adesso? Questo era Cuore Matto, c'è Little Tony con la sua giacca a frange, un po' da Kit Carson, che arriva dall'America e praticamente prende spunto da un elemento biografico. Lui alla fine degli anni 50 si era ritrovato in Inghilterra, era partito dalle balere di Tivoli, dei castelli romani da cui proveniva, per andare in Inghilterra e scoprire il mito del rock, prendere il nome Little Tony da Little Richard e vivere in questa sorta di sua Graceland mentale, in cui si era anche fatto costruire nella sua villa sull'Appia Antica questa statua di 4 metri che raffigurava l'icona per eccellenza della sua esistenza. Oggi molti giornali, che tutti dedicano comunque una pagina alla scomparsa di Little Tony, e prego questa mattina gli ascoltatori che mi vogliono seguire in questo momento dedicato a un frammento della nostra gioventù, ma per molti probabilmente è stato uno strascico più lungo nell'immaginario, che poi c'è stata una grande comparsa di Little Tony in televisione, quindi non è detto che occorra avere per forza più di 50 anni per ricordarselo e per ricordare con una certa nostalgia gli anni in cui era possibile avere dei sogni, e c'erano persone così favolosamente intrise della voglia di sognare che incarnavano, diventavano l'oggetto dei sogni. In questo caso era il grande Elvis. 800 24 00 24, questa mattina la dedichiamo a Little Tony. Dario Salvatori, buongiorno. Buongiorno a voi. Dario Salvatori è notissimo perché è un giornalista, un critico musicale, conduttore radiofonico, ha scritto tantissimi libri, ma fa un po' parte di quella generazione che incarna in sé dei miti che non moriranno mai finché ci saranno ancora persone in grado a ricordarli. E qual è il tuo ricordo di Little Tony? Ma un ricordo tenerissimo di un ragazzo, di un artista che non ha mai cambiato idea sui propri gusti musicali e su cosa fare su un palcoscenico, e questo sia quando quello che faceva era di moda, sia quando era un po' meno di moda. E questa si chiama integrità, questa si chiama coerenza, è quello che ha pagato nella sua carriera, e quindi come ricordavate giustamente, oggi anche un ragazzo, un giovanissimo, se lo volesse, potrebbe ricordarlo dalle performance televisive. Ma non è questo, diciamo che lui ha incarnato perfettamente l'essenza del rock and roll, naturalmente con dei mezzi limitati, italiani, romani addirittura, che erano quello che erano, e a differenza di qualche omologo milanese tipo Celentano, Gaber, che già potevano godere di una Milano un po' più ricca, non proprio ancora da bere ma da sorseggiare, sì, insomma, beh, lui no, lui stava a Roma, dove sappiamo bene che il dopoguerra è durato 15 anni, quindi lui si muoveva in un clima da cappotti rivoltati e quindi era tutto molto più faticoso, e però ce l'ha fatta imponendo quello che a lui piaceva, e non è poco. Beh, lui proprio diciamo che ha incarnato fisicamente il mito di Elvis, sì. Lui era fra i tanti che ancora ci sono, che si vestono come Elvis, mettono i capelli come Elvis, sì. Fanno i sosia di Elvis, lui l'ha fatto per tutta la vita. Lui l'ha fatto tutta la vita, ma con grande dignità, cioè non era un impersonator, come dicono gli americani, non era un imitatore, era uno che per primo, secondo me, in Italia ha capito che il look, che a quel tempo neanche si chiamava così, e comunque i capelli, le scarpe, i vestiti, le mosse, il ciuffo, contavano come repertorio. E lui questo lo ha introdotto in Italia, questo concetto, perché Celentano era vestito con dei sandali e con dei vestiti che comprava all'Onestà di Milano, cioè il magazzino popolare per eccellenza di Milano, cioè Gaber ancora di più, e Tony invece lavorava su questo, insomma. E le macchine, ecco, questa passione delle macchine è strettamente legata all'America degli anni 50. Infatti molti dei suoi musicarelli, loro anche grande interprete, sì, del musicarelli, ma lo ricordiamo, il musicarelli era un genere cinematografico negli anni in cui non esisteva il videoclip, sì, e la televisione era molto meno visibile di oggi, si faceva un film per lanciare una canzone. Il contrario, quando una canzone aveva molto funzionava, successo diventava un film. Diventava un film, sì. Quindi è un film legato a una canzone, una sorta di musical in cui ogni tanto il protagonista si mette a cantare. E ne ricordo uno, che ero ragazzo, in cui lui proprio faceva il pilota di Formula 1, mi sembra, qualcosa del genere. Faceva il pilota d'automobile, quindi era molto legato, sì, a questa idea della guida. Sentiamo Alex, primo ascoltatore. Alex, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare questo intervento relativo... Si avvicini al telefono però, Alex, perché la sento un po' lontano. Sì, mi sente? Sì, ecco, sì. Allora, dicevo, volevo fare questo intervento in merito alla testimonianza dei miei genitori che ai Castelli Romani, quando ancora lui stava nelle balene, quindi faceva le sue performance... Che anni erano più o meno? Beh, io ho 35 anni, io ero nato prima del matrimonio dei miei genitori, più o meno l'età di Bertone, che sono del 42, uh-huh, e allora lui si esibiva nei matrimoni e io ero piccolissimo e ricordo quel modo di fare che ha dato un cambiamento notevole al panorama della musica, perché all'epoca ricordo c'era Battisti, c'era insomma tutti questi autori che davano il melodrammatico, mentre lui che ha innovato, ha dato un tocco di innovazione un po' al palcoscenico e soprattutto alle feste, dando quel rock and roll che noi magari sentivamo nelle radio perché in televisione non ce l'avevamo, e quindi quella musica ci dava brio, ci dava energia, e poi io l'ho portata in avanti comprando i suoi dischi. All'epoca c'erano i 33 giri, no? I famosi dischi che ora sono diventati dei reperti quasi archeologici che non si usano più. Ci sta tutto, Dario Salvatori, quello che dicevi te nella testimonianza di questo ascoltatore, se lo ricorda che animava una festa di matrimonio, quindi ci sta tutto lo spirito degli anni che stavi descrivendo. Sì, beh, naturalmente, perché poi non si poteva debuttare con il rock and roll, Little Tony debuttò esattamente come riporta il nostro ascoltatore, cioè con Novino, il padre, che suonava nelle osterie e quindi suonava, per la verità, alla Casina Donati, un chiosco di piazza San Giovanni a Roma che ancora c'è, ancora è lì, e lui debuttò lì. E quindi ecco, il clima non era semplice, insomma, perché creare innovazione in un'Italia strettamente legata al bel canto, all'acuto, al cesello, non era semplice, insomma. Quindi quello che oggi la gente potrebbe guardare con un filo di sentimento snob nei confronti di Little Tony, beh sì, in fondo faceva parte di una cerchia di cantanti che sì, hanno raggiunto la notorietà, ma non sono quelli che hanno segnato dei passi indelebili nella storia della musica. Devo dire che al tempo in cui si produsse in realtà fu un innovatore rispetto a quello che girava per l'area, o quello che comunque era normalmente il genere musicale più percorso. Innovatore assoluto, perché cambiò tutto, cambiò l'impostazione, il modo di presentare una canzone e di presentarla sia in TV sia su un palcoscenico. Naturalmente lui aveva questa grande centralità della sua vita, della sua artisticità, che era Elvis, e lì non cambiò mai. Però con grande onestà, devo dire, con grande capacità, quindi ben venga chi ha le idee chiare su questo, no? Cioè poi è il pubblico che poi alla fine ha fatto un grande giro e è tornato da lui, non è lui che si è adattato, questa è la grande forza. Mi scrive un'ascoltatrice, di cui non dico il nome perché è un SMS, dice: era un grande amatore, lo confermo. La ringrazio del passaggio. Io scendo qui, abito proprio da queste parti. Purtroppo quella strada è direzione vietata e non si può passare. La rivedrai con piacere. Il piacere sarebbe tutto mio. Com'è il suo telefono? Purtroppo è una cosa un po' complicata. Io vivo in una soffitta con degli amici e non abbiamo il telefono. Bisognerebbe telefonare a un bar lì vicino e... Se telefonare a me non è affatto complicato. Ah. Je reste à Rome soltanto 10 giorni per una partecipazione ad un film di Felloni. Ah, sì, sì, lo so. Allora, a biento. Arrivederci, a presto. Certo, non era la pretesa di arrivare ai livelli di Sorrentino, però si parlava di Roma e Fellini era Felloni. Sì, sì. E Giuseppe Sansonna, che film era questo? Sempre Cuore Matto. Cuore Matto, sempre di Corbucci. Insomma, lui si presenta doppiato qui in questa versione. Quando parlava veniva doppiato, insomma, per conferire quella voce calda, anche con questa neutralità un po' teatrale che potesse fare di lui una sorta di icona, appunto, quasi alla Mastroianni in questo caso, come se fosse il Marcello della Dolce Vita. Però poi di fondo questi film erano sempre un pretesto per far partire la canzone. Queste fasi di raccordo spesso oscillano fra il farsesco e il sentimentale, ma in una maniera talmente leggera ed edulcorata. Però rispetto a quello che si diceva prima, è veramente interessante come fosse lui un sincretismo fra il mondo popolare ruspante dei castelli romani e appunto della Graceland e Memphis. Cioè, è forse stata la sintesi più felice, che ha resistito anche alle ironie eventuali, alle forme parodiche, che forse già le conteneva in sé, ne era immune in questo. Sentiamo Claudia. Claudia, buongiorno. Buongiorno signor Vicoletti, mi scusi ma sono un po' emozionata perché non ho mai parlato alla radio. Beh, ormai l'ha già fatto, quindi è già passata. Ma ieri sera, sì, ero a letto e ho appreso questa notizia che mi ha veramente... Sì, non me l'aspettavo perché non sapevo che fosse malato, avevo saputo dell'infarto. Ecco, io ho vissuto, sì, ho 64 anni, per cui l'ho conosciuto un anno, due anni prima che ha avuto l'infarto, in un locale qui a Treviso. Io abito a Treviso ma sono abruzzese. E nacque, sì, una storia fra voi? No, però le posso dire che siccome partecipavo molto, perché le canzoni mi ricordavano la mia, e lui mi faceva l'occhietto, mi faceva l'occhiolino. Quindi viene confermata questa fama. Oddio, un'altra volta ti ha fatto l'occhiolino. Questa fama di sciupa femmine, quindi scusi Claudia, me la conferma, perché già un'ascoltatrice ha scritto, era un grande amatore, lei mi conferma che Little Tony provò con lei. Ma me l'ha fatto più di una volta. Ero talmente emozionata, ero proprio lì davanti, sarei potuta salire sopra a salutarlo, ma questo mito che mi sembrava incredibile che io avessi potuto, ma poi come dicevo alla sua corsia... Non mi sembrava vero di poter suscitare il desiderio di Little Tony? Ecco, una persona così professionale, proprio preparata, elegante... poi io trovo che sia un personaggio molto umano anche Little Tony. E non le passò in mente di rispondere, di andarlo a conoscere, no? No, non ci sono andata, sono rimasta come... Sì, mi sembrava già tanto. È rimasta emozionata. Perché veramente è passato di più di quello che si vede sulla televisione, Rocchettaro... Una persona molto fine elegante. Sentiamo Anna Maria, se conferma. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, sente, anch'io come la signora precedente ho circa 74 anni, per cui si può dire che mi ha accompagnato per tutta la vita. Era una persona di una squisitezza, di una gentilezza, non che io l'abbia conosciuto personalmente, ma solo a vedere come si porgeva in televisione, nei suoi spettacoli, sempre di un'eleganza impeccabile. Anche molto carino, devo dire che mi ha molto affascinato quando ero una ragazza e aveva quelle canzoni un po' strane che mi ricordo mio suocero derideva, le ascoltava come la spada nel cuore, mi ricordo, le ascoltava con un senso di ironia perché quelle parole per lui erano stupide, ma a me entravano nel cuore. Perché veramente era una persona che mi ha molto, molto fatto compagnia, perché sa che nella vita tanti pomeriggi si sta soli, e allora avere una persona che con la sua allegria, perché era allegro, le sue canzoni non erano molto tristi, ed allora mi ha fatto tanta compagnia, io lo ringrazio per questo, perché io vivevo, nonostante che io sia sposata e abbia due figli, il pomeriggio, la mattina insegnavo, Il pomeriggio stavo molto spesso sola. Quindi il suo sogno di trasgressione matrimoniale era Little Tony. Questo farà senz'altro piacere se sente la buon'anima. Dario Salvatori, hai visto, è insospettabile molte volte quando semplicemente si scrive la biografia di un cantante, o se chi c'aveva già probabilmente il coccodrillo pronto, ha fatto pochissima fatica. Però adesso tocchiamo con mano quello che in realtà significò in questi decenni, questo passaggio. Signori di 70 anni che chiamano e ricordano i palpiti amorosi, nonostante fossero sposate con figli, che suscitava Little Tony. Entriamo un po' più nello specifico sulle canzoni, sui testi, visto che saranno passati superficialmente per noi che eravamo cinici e maschi, ma per queste donne ha significato qualcosa. Sì, ma i testi di Little Tony si dividevano prevalentemente in due categorie: le canzoni inglesi o tradotte in italiano, quindi la storia del rock and roll, i classici del rock and roll, che erano dei testi adolescenziali o post-adolescenziali. C'erano poi invece le canzoni italiane scritte da autori italiani, come Cuore Matto appunto, e che insomma raccontavano o di amori infranti o dell'adorabile canaglia che veniva impersonificata da Little Tony stesso, no? Anche Riderà, che per la verità è una canzone francese, ma insomma il testo italiano racconta di un'adorabile canaglia. E lui questo, quindi lo sciupa femmine un po' nel suo personaggio. Sì, diciamo. Come no, sì, certo, anche se devo dire che poi lui ha avuto un matrimonio, una lunga vedovanza, insomma voglio dire, non si ricordano starlette intorno a lui di qualche peso, insomma sì, insomma come storico potrei dire qualche attrice dimenticata della fine degli anni 50, ma insomma non avrebbe grande senso. E questo è, così come è rimasto fedele allo stile di Elvis, è rimasto fedele a sua moglie, a Giuliana, che poi l'ha conosciuta a San Giovanni dove lui è vissuto, ecco, quindi c'è un'integrità, c'è una solidità nei gusti musicali, nei sentimenti di questo ragazzo. Beh, sai, è l'ideale maschio su cui sognare della donna media italiana, sì. Integerrimo e onesto nella realtà, ma corsaro e sciupa femmine nell'immaginario, quindi sì. Puoi immaginarlo tale, ma sai che mai aggredirà la tua virtù. Angelo, sì. Sentiamo Angelo, buongiorno. Sì, niente, intanto vabbè, saluto Dario Salvatori, che ci siamo conosciuti, lui non ricorda tutte le persone, e chiaramente è un po' anche lui una storia, insomma. Io mi è capitato ieri sera comunque sono rimasto scioccato, anche perché poi stavo in macchina, dalla macchina dalla quale sto chiamando adesso, e sedere a fianco al mio ha portato Little Tony, cioè l'ho accompagnato in altri concerti. Mi è capitata una lei ha portato Little Tony ai concerti? Sì, e ho presentato i suoi concerti. È stata veramente per me un onore, perché sembrava quasi di sconsacrare quella che è proprio l'atmosfera che apre i concerti di qualsiasi artista, non un grande artista davvero. E poi un artista che comunque nelle piazze ha sempre portato tanta gente, dal bambino all'anziano, quindi sempre molto attuale. E quello che volevo raccontare è un aneddoto, e questo mi rimarrà tutta la vita. Eravamo davanti a un posto, cioè dovevamo entrare la sera, lo sono andato a prendere in hotel, e a un certo punto ci fermano i vigili urbani, dove andate? Dice, dobbiamo andare per il concerto, no, non si può passare, fateci vedere il pass. Insomma, lui li guardava, loro lo guardavano, e lui era vestito con la giacca laminata, e abbiamo parlato con loro forse 5-6 minuti, lo guardavano, non l'avevano riconosciuto, non lo avevano, erano talmente forse succede questo, che quando avvengono degli eventi diciamo che si vivono momenti, credo così, di tensione. Erano abbagliati dall'apparizione, allora lui ha fatto questa battuta, ha detto ragazzi io vi faccio fare l'autografo da lui, non vi preoccupate, poi magari anche un disco e vedo di poterlo trovare. E ok, d'accordo, va bene. Insomma, praticamente questi non l'hanno capito che lui era Little Tony, e lui li guardava da 30 centimetri. Ma quanti anni erano questi? Così capiamo. È successo una decina d'anni fa. Quindi ancora era fulgido e presente il mito di Little Tony, anche se non l'hanno riconosciuto. Giuseppe Sanson. No, mi volevo rifare prima la telefonata dell'ascoltatrice che parlava del fatto che il suocero deridesse i gusti. Si torna un po' alla situazione ricorrente di tanti suoi film, no? In cui è questo ragazzo scapestrato, bohemien, che insidia queste brave ragazze di casa, e il suocero, è sempre il suo futuro suocero, che è sempre uno che lo deride, lo dileggia, perché appunto non è uno regolare, regolare, non è uno inquadrato, anche se poi fondamentalmente è un bravo ragazzo, è un bohemien normalizzabile nel corso della trama. Erano gli anni in cui cominciava a sentirsi nell'aria quello che era il movimento di rivolta giovanile, generazionale, quindi veniva visto con sospetto, penso, e se lo ricorderà anche Dario Salvatori, anche Albano nei suoi film faccia parte comunque sempre di un pretendente non all'altezza della donna. Ha fatto anche Schubert Albano. Ha fatto anche la parte di Schubert. Carlo, sentiamo Carlo. Sì, buongiorno, buongiorno, sì. Salve Nicoletti. Beh, io con Little Tony ho un rapporto molto strano, perché quando avevo 6 anni mia madre aveva un negozio di dischi molto importante a Milano, io rubavo le cartoline, sai, quelle che dei cantanti da autografare, mm-hmm. e andavo in giro a venderle per la città, nel mio quartiere, e facevo un sacco di soldi, perché le facevo pagare 5 lire l'una, e c'era un sacco di signore, di ragazze che me le compravano, e arrivavo a fare fino a 200-300 lire al giorno, che erano un grande capitale. Ma il legame con Little Tony qual è? Il legame con Little Tony è affettivo, perché mi ha insegnato attraverso la sua immagine a capire che io faccio il manager adesso, che adesso sono diventato manager grazie al fatto che ho capito che gli artisti valgono moltissimo anche a livello di immagine. Ce l'hai capito fregando le cartoline a sua madre e vendendole, commovente. Vendendole alla borsa nera delle sue amichette, che era la chiave del successo. L'Italtone aveva un'immagine incredibile, questo ciuffo, questo modo di vestire, come hanno detto anche altri ascoltatori, che colpiva. Quindi io mi ricordo che tra tante cartoline che c'erano, io quelle lì erano quelle che... Erano le più vendute. Assolutamente. La sua madre si è mai accorta di questo suo losco commercio, no? Beh, sì, in realtà me lo lasciava fare, ero nel quartiere, avevo 6-7 anni. Così, se faceva le ostriche da grande, vedrai, farai il manager. Melog. La realtà condivisa. Madonna, non ci siamo capiti. Mi devi fare pure il basso. Madonna, non mi delude. Vai, Doni. Tutto, tutto, tutto, tutto, tu. Vai, Doni. Tutto, tutto, tutto, un cuore matto che ti segue ancora. Tutto, tutto, tu. E giorno e notte pensa solo a te. Tutto, tutto, tu. E non riesco a fargli mai capire. Tutto, tutto, tu. Che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Ma che fai, Lito? E vorrei vedere a te cantare con una pistola puntata in faccia. Lo fai cantare, eh? Ma che ti dice il cervello? Dica adesso, cammina. Sì, puntava senti in fiata, mettete a sedere. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire. Ci stiamo ricordando questa mattina di Little Tony, scomparso nella notte. Lo facciamo la mattina in cui Roma si lecca le ferite per la scarsa affluenza alle urne elettorali del proprio sindaco. Lo facciamo alla faccia di tutti quelli che pensano che ci piace ripiegarci su miti del passato. Invece guardate su Twitter, il più cyberfighetto medium contemporaneo. Ci sono persone che dicono che stanno seguendo in maniera struggente questo ricordo. Non bisogna aver paura delle proprie nostalgie. Giuseppe Sansonna, adesso questa è una scena importante nella storia e nella percezione di Little Tony. Questo era L'odore della notte di Claudio Caligari del 98, e qui da Marco Giallini, dall'ipercoatto Marco Giallini nel film, viene restituito alla sua dimensione Little Tony di feticcio popolare, degradato ed esaltato a jukebox vivente. Cioè, gli fa, dopo avergli svaligiato la casa, questo bandito vuole anche che gli canti la canzone, che sia Little Tony, che consista in questa canzone. Adesso abbiamo sentito, io avevo la pelle d'oca, perché comunque si sente la passionalità, anche in cuore matto, fortissima, al di là dell'eventuale kitsch di tutti gli snobismi culturali che si possono avere. La percepisci e quella è verità. Ma sì, per molti è stata la colonna sonora, chissà di quanti palpiti, di quanti pensieri, di quante delusioni, di quante attese. 800 24 00 24, scopriamo le tombe e raccontateci i vostri ricordi di Little Tony, come fa Silvia. Buongiorno. Silvia. Buongiorno. Silvia. Buongiorno dottor Nicoletti. Pronto? Capisco la sua commozione, però si esprima, Silvia. Allora, io all'epoca facevo l'assistente di volo, ero collega della ex moglie di Little Tony, e mi è capitato... Vi confidavate come colleghe di volo? No, perché l'ho conosciuta, ma è stata una conoscenza superficiale, una ragazza molto solare, molto carina, insomma, era allegra, allora... ci siamo incontrate in qualche volo, ma non eravamo proprio amiche. Ma lei sapeva che era moglie di Little Tony? No, era ancora prima che lui si legasse con questa ragazza. Io, e mi è capitato di averlo a bordo in un volo da Roma a New York, e con i suoi pantaloni di pelle, attillatissime. Io in quel volo ero assegnata al Gelli e lui ha passato tutto il volo nel Gelli perché temeva un po' l'aeroplano. Non so se fosse vero, se fosse una... Quindi lei ha perso una grande occasione, poteva innamorarsi di lei e non della moglie. Forse, diciamo che io ero un po' milanese, ecco, un po'. Ma ci provò anche con lei come con la signora di prima oppure? No, molto garbato, proprio. Nessun avanzo. Ne ho un ricordo proprio bello, insomma, un ragazzo che almeno diceva di temere un pochino l'aeroplano, per cui passò tutta la traversata dell'Atlantico con me nel Gelli, così. Beh, a chiacchierare. Poteva essere una scusa anche per stare con lei. Forse. Lui ha fatto film in cui era pilota d'aereo, pilota di automobile, di auto, di Formula 1, quindi era un uomo spericolato, secondo me era una... sottintesa maniera di starle vicino, lei non capì e quindi infatti scelse la moglie. Già era famoso abbastanza. Lei vivrà con questo rimpianto, Silvia. Carlo? Pronto? Sì, un aneddoto. Un aneddoto? Devo dire che io avevo 52 anni, quindi era veramente molto piccolo quando Little Tony teneva i palchi di Sanremo. Mi ricordo di lui perché quando ero piccolo mia madre mi obbligava praticamente a guardare Sanremo, tutte le edizioni di Sanremo, poi andava a comprare in edicola un libricino che vendevano ai tempi in edicola con tutti i testi. Con le parole, certo. Esatto, e mentre stirava io dovevo cantargli le canzoni, ai tempi c'era Nada, c'erano i Nove, Giglioli. Un piccolo jukebox vivente. Esatto. E, era maltrattamento, di sfruttamento del lavoro minorile. No, anzi, è stato un piacere perché io canto ancora adesso e suono, per cui devo ringraziare mia madre. Nel suo repertorio ci sono canzoni di Little Tony? Beh, no, perché io faccio il repertorio straniero. Beh, lui ha cantato anche in inglese. Però c'è un'altra cosa che volevo dire, che... Little Tony praticamente, alla fine mi interessava anche capire qualche cosa di più di queste persone di cui sentivo le canzoni, e andando a tagliare i capelli e vedendo le riviste quando ero proprio un bambino eccetera, che c'erano le riviste, vedevo Little Tony molte volte inquadrato in posture di yoga praticamente. C'era una persona che nella sua villa di Roma, adesso non so, cioè sono ricordi molto sfumati, faceva yoga e è nata questa... Infatti sono un istruttore di yoga, cioè è nata anche questa curiosità. Sentiamo se può dirci qualcosa uno dei più grandi esperti di musica leggera che abbiamo in Italia, che è Dario Salvatori, che è un giornalista, conduce la radio, ha scritto vari libri. Ti risulta, Dario, questa passione di Little Tony per lo yoga? Sì, era un naturista, era anche uno molto accorto dal punto di vista alimentare. Poi quando scoprì che Elvis era un appassionato di arti marziali, pur senza sposare le arti marziali, praticamente riproduceva le mosse di Elvis che si riferivano alle arti marziali. Ma comunque io non l'ho mai visto, abbiamo passato centinaia di giornate, di serate insieme, non ho mai visto bere, non ho mai visto esagerare dal punto di vista alimentare, quindi era uno che teneva molto a queste cose, tant'è vero che si metteva ai vestiti di 40 anni prima anche. C'è anche da dire che le sue apparizioni televisive, anche quelle più recenti, al di là della brutta malattia che l'ha portato via, era una persona eccezionalmente conservata, sembrava un ragazzo, a parte i capelli che naturalmente erano tinti, ma non era molto diverso dal Little Tony di anni fa. No, e questo ovviamente ha a che vedere con questa disciplina. Ecco, su questo non c'era idolatria nei confronti di Elvis, che come sappiamo invece prese un'altra piega, un'altra strada. Quello è il sintomo della corruzione, della degenerazione, certo, dell'infradiciamento fisico. Rosalea, componete. Cettone, che te vuole salutare. Mi raccomando, Ciao, Tony. Ciao, Tony. Signor Caputo, ero venuto per dirle che questa sera potevamo andare al cinema. Io ci verrei volentieri, ma devo andare al giornale a correggere le bozze, alle 10 preciso. Ci potremmo andare io e Lia da soli. Tone, ci dobbiamo mettere d'accordo. Tu a mia figlia la devi chiamare interamente, senza economizzare, Rosalia. e poi al cinema ci andrete da sole quando vi sarete sposate. È chiaro, limpido, cristallino, eh? Potresti venire a vedere la televisione. Beh, finché papà non va al giornale, si intende. È la solita storia del pastore. No, Tone, questa sera trasmettono Le due orfanelle, un lavoro bellissimo. Va bene, io vado a lavorare. E io a dormire. Ciao Tone. Buon riposo, signor Caputo. Ciao Tone e buon lavoro. Giuseppe Sansonna, qui c'è anche il paradosso di riuscire a ironizzare su quelli che sono i miti sacri della storia del musical. Sì, ma qui c'è soprattutto questo è zoom zoom zoom di Corbucci, c'è il sublime enfisematico Nino Terzo che fa appunto la parte del futuro suocero, tocca a lui fare il cerbero suocero che impedisce che ci avvenga appunto il convegno amoroso, e un improbabile editore, giornalista, intellettuale che cita Pirandello, insomma chiaramente molto distante. Lo ricordiamo, si riuniva qui a Piazza Indipendenza nello storico bar di Franco e Ciccio dove concertavano i loro film, lo sappiamo. Qui accanto, proprio dietro la nostra radio, Piazza, certo. Indipendenza. Senti, Dario, qual era, diciamo, i rapporti tra Little Tony e gli altri emulatori di Elvis, come ad esempio Bobby Solo, perché non era il solo in Italia a seguire quel filone. Tu hai citato Celentano, ma anche Bobby Solo era su quella linea di ricostruzione del personaggio. Beh, direi buono, con Celentano c'era una vecchia e robusta amicizia, tant'è vero che nel penultimo show Celentano lo invitò e duettarono, naturalmente sempre con questo dualismo Roma-Milano. Ci fu un periodo in cui Adriano Celentano tentò di ingaggiare Rico Sacci, il chitarrista, fratello di Tony, e Tony si oppose, lì ci fu un momento di rigidità. Con Bobby Solo un'amicizia ancora più importante, ricordiamo che Bobby Solo spuntò qualche anno dopo Little Tony, ma sempre con lo stesso mito e col ciufferetto, e poi duettarono lungamente fino a un Sanremo dove secondo me non se la giocarono molto bene. Io gli consigliai di andare vestiti country, come due maturi signori country, e loro si vergognarono e si misero lo smoking. Nessuno li riconobbe come tale. Sì, insomma, secondo me funziona di meno, però c'era una solida amicizia anche lì, come noi stima professionale. Senti, dal punto di vista proprio musicale, della vendita dei dischi, proprio del fatturato, come era andato lui della sua carriera? È stato un cantante che ha fatto parlare e anche vendere? Guarda, lui ha venduto milioni di dischi, diciamo fino al 1970, poi dopo lui ebbe l'idea di aprire una propria casa discografica, perché in quegli anni i cantanti che facevano dei soldi aprivano una casa discografica. A qualcuno andò bene, a qualcuno andò male. Caterina Caselli andò benissimo. Caterina Caselli non aprì una casa discografica, sposò il figlio del capo della casa discografica, che è diverso. C'era sempre un'apertura. E quindi lui fece la Litro Record, naturalmente, che non fu proprio un esempio di management vincente, e quindi lì calò un po', qua anche con il cambio dei gusti, calò un po' le vendite discografiche. Poi però scoprì un decennio, i 70 di grandi spettacoli dal vivo, e poi gli 80 il totale rilancio, soprattutto televisivo. Quindi poi da lì in poi i dischi non l'ha venduti più nessuno. Chi fu che lo riportò in televisione in maniera consistente? Come mai a un certo punto riapparve Little Tony? Che erano gli anni dell'oblio, quelli in cui la televisione faceva altre cose. Sì. Inizialmente fu Mediaset che lo scoprì proprio in duo con Bobby Solo, poi naturalmente la Rai, ma non le trasmissioni revivalistiche, direi più le trasmissioni nazional popolari, cioè quelle del sabato sera o la domenica in, o fino agli anni più recenti quelle di Conti, dove c'era possibilità di ascoltare questi brani spesso tagliati, spesso sfumati, spesso arrangiati in modo volgare, però insomma nel cuore del grande pubblico. Sì, prima che venisse il grande gusto del revival, forse lanciato da Anima Mia, non so bene, c'è una sorta di pruderie, si sentono tutti improvvisamente di voler dimenticare e cancellare un proprio passato popolare. Sì, questo sì, sono operazioni diverse, perché Anima Mia è un'operazione, fu un'operazione diciamo un po' a tavolino, no? Con dei mascheramenti, con dell'ironia sottile, se vogliamo, e Little Tony andava vestito da Little Tony, era se stesso e non c'era nessun mascheramento, cantava le sue canzoni, prendere o lasciare, e il pubblico prese a piene mani, direi. Melog, la realtà condivisa. posso sognare. Per paradosso, una delle richieste più consistenti mi è stata fatta questa mattina di rimandare la sigla di Love Boat, perché era cantata a Little Tony. Ma perché? Perché fu ritrasmessa negli anni Ottanta su Canale 5, Love Boat, quindi la generazione di Mazinga Z e degli UFO Robot è passata attraverso Little Tony, attraverso Love Boat. Giuseppe Sansone. Però si innesta perfettamente con l'atmosfera, con l'aura vacanziera di perenne leggerezza, di costiere amalfitane, di macchine decappottabili, di balere che Little Tony trascina con sé nell'immaginario collettivo italiano. Invece, visto che ne stiamo parlando anche dell'aspetto cinematografico, musicarelli, cioè erano film, come ci ha spiegato Dario Salvatori, già salutato e lo ringraziamo, quando una canzone aveva un grande successo diventava un film e faceva una sorta di musical all'italiana in cui il protagonista era il cantante, doppiato quando parlava, perché doveva parlare bene, ma ogni tanto prendeva e cantava la canzone e la gente andava invisibile. Non mi riconosci? Sono io, Little Tony, the king of rock and roll, il tuo mito. Rock and roll is the music for you. All right? All right! Basta con rock and roll! Basta con sto guaiena! Basta! Vieni qua, lascialo perdere sto quando andi di quattro sorda. Ma chi è sto littolettolo? Sentimi bene. A quella tua fidanzata, la Romea, queste sono le canzoni che devi cantare. Vabbè, questo è un film che adesso di cui ci parlerà Sansone. Mi piace vedere e seguire questo filo sottile delle nostre ascoltatrici che vedono tuttora in Little Tony un fantastico simbolo di maschio devastatore. Ricorda un'ascoltatrice che nel 62-63 doveva inaugurare un negozio di dischi a 100 celle. La gente era impazzita e urlava nudo, nudo, nudo. Dovette andare via scortato dalla polizia. È il ricordo di Tina, fantastico e carnale ricordo di un'ascoltatrice che avrà 70-80 anni, però si ricorda questo palpito carnale dell'immagine Little Tony che volevano spogliarlo. Giuseppe Sansone, questo, il film cos'era invece? Il film era Sud Side Story del 2000, in cui Roberta Torre rivive in chiave teorica, appunto ironica e sottile, i musicarelli, proponendo questa sorta di duello sullo sfondo di una sorta di Romea e Giulietto, sono i due personaggi, una nigeriana e un palermitano. Romea e Giulietto, sì, che hanno anche come... Iacovitti fece qualcosa del genere. Cioè, sì, un rovesciamento, in cui i padrini di questi due ragazzi sono appunto il rockabilly Little Tony e il melodico Mario Merola, che è fasciato di rosso, e invece lui è circondato letteralmente da ragazzini ye che escono da delle botti, no? E quindi questa sorta di disputa. Beh, questa storia era, diciamo, il grande modello di cui questo era il trash emulativo, naturalmente. Emulativo, ma già corrosivo, ironico, che però riportava queste due icone profonde, questi materiali viventi e incandescenti della cultura popolare italiana, che appunto proprio per la loro immutabilità persistono, sono rimasti inalienabili, non hanno... Credrei che qualcuno poi recupererà la fantastica caratteristica di tutti i miti, dei meme che nascono in rete, proprio di recuperare poesamente qualcosa che il mondo concreto sembra aver abbandonato, seppellito, e ridargli una nuova vita. Credete che riusciranno dei fan club di Little Tony in qualche circolo in forma telematico prima o poi? Simone, buongiorno. Sì, buongiorno. Simone. Niente, il mio ricordo di Little Tony è 6-7 anni fa forse. Lui è venuto a Sirone nel negozio di fiorista di due mie amiche. E Sirone è un paese, il paese vicino a Molteno dove è sepolto Battisti, e doveva portare il fiore Battisti. Ma quindi era venuto a acquistare un mazzo di fiori per portare sulla tomba di Battisti? Sì, era a settembre, no? Quando allora c'era la festa lì per in onore di Battisti, e entrò nel negozio tutto sorridente e disse: ragazze, devo portare dei fiori all'uscio. Ma che gli porto io all'uscio? Così è stato simpatico. E che fiore ha scelto? Che fiore ha scelto? Non me lo ricordo. No, ha detto niente, ha lasciato fare le due mie amiche, ha preso un bel mazzo, non ha neanche messo. Beh, ci permette di riflettere sulla ruota della vita. Oggi qualcuno andrà da un fioraio a comprare dei fiori per Little Tony, ecco. Ma domani qualcun altro andrà dal fioraio per comprare dei fiori per Sansone. Questa è la regola dell'esistenza. Tutti, vale per tutti. Più o meno per tutti. Giovanna, buongiorno. Ciao Nicoletto, mi fa molto piacere intervenire. Io parlo da Sestri Levante. Sestri Levante è una delle cittadine della Riviera Ligure, splendida come ben sapete, vicino a Portofino, al Cinque Terre, eccetera. È la città dei fiori, anche Sestri Levante. È un ricordo di Ciacci, noi lo chiamavamo Ciacci perché io ero una ragazzina, lui era un po' più grande. Nell'intimità vi chiamavate Ciacci? No, io proprio non lo conoscevo. Lui era il ragazzino che accompagnava lo zio, il quale faceva il suonatore di chitarra nei ristoranti che allora cominciavano a pullulare nella Riviera. Sono stati gli anni del boom, gli anni veramente della... Ma lui cantava, suonava o andava in giro col piattino? No, lui andava solo in giro col piattino. Quando lo ricordo io era solo, era lo zio che cantava malissimo. Devo dire la verità, strimpellava come facevano, allora ormai non ce ne sono più di strimpellatori di canzonette nemmeno nei locali della Riviera, però allora era il tempo felice della giovinezza per tutti, della fanciullezza. E lei fraternizzò con il piccolo Tony? No, assolutamente, lo vedevamo anche con una sorta di... noi eravamo i figli degli indigeni, c'è sempre stata una sorta di distanza, e che c'è tuttora. Cioè, lo consideravate un terrone perché era di Tivoli. Bravo, io non volevo assolutamente. Lo consideravamo comunque un bambino sfruttato, un ragazzino sfruttato. E invece poi erano carinissimi tutti. Lei pensi, Giovanna, com'è la vita? Quel quasi zingarello che voi disprezzavate è diventato Little Tony. Perfetto, poi io non l'ho mai, devo dire la verità, amato la sua musica granché, però il personaggio era straordinario. Io ho il ricordo di questo ragazzino all'Angiolina, di questo ristorante famoso. E come era vestito? Come lo vestivano? Adesso mi chiedi delle cose che non ho assolutamente... Scavi del ricordo. Normale, penso che non avesse abiti particolarmente... Cioè, aveva i segni tangibili dell'indigenza, della miseria? No, erano persone modeste ma dignitose, molto dignitose, e voi con la vostra, tra l'altro, però, con una loro forza interiore. Adesso lo dice, ma con quella vostra puzzetta sotto il naso, noi da brave bambine sotto il naso, liguri. Come lei sa bene, Nicoletti, sei venuto a queste parti, ce l'abbiamo sempre, noi sì. Siamo peggio dei corsi, siamo terribili, i liguri sono meravigliosi. Solo con tutto l'aglio che mangiate, poi... Non mangiamo aglio, non dire sciocchezze, che non mangiamo aglio, mangiamo il pesto che è buonissimo e con poco aglio, però siamo snob e manteniamo una... se avrò occasione di riparlare le racconterò dei fatti al prossimo morto. Giovanna, al prossimo. Guido, buongiorno, io chiamo da Loreto in provincia di Ancona. La mia famiglia aveva un albergo dove venivano un po' tutti quanti al Cantagiro. Io non ho conosciuti tantissimi questi cantanti, ma mi ricordo un giorno che venne Little Tony con la sua Lamborghini Miura arancione, vestito con una giacca nera di pelle e una camicia sul rosso. E io ero un ragazzino che trafficavo sulla mia moto perché correvo in moto. Il cromatismo, l'accostamento cromatico si chiama tramonto messicano. Sono questo degradare che va dall'arancione al rosso al nero. Andava molto bravo, di moda. Proprio quella lì. Io me lo ricordo come se fosse ieri, la sua pettinatura. E mi vide trafficare sulla mia moto che io facevo le gare di regolarità. Che moto aveva lei? Che moto aveva? In quel periodo avevo una Montesa. Ah, bella Montesa, moto spagnola, le prime moto spagnole importate. Preparata. Lui mi ricordo che mi vide trafficare davanti all'albergo su questa moto, si avvicinò e diventammo così amici per un giorno. La lasciamo sul degradare di questo fantastico ricordo. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie a quelli che ci hanno accompagnato. Una giornata abbiamo voluto dedicare a Little Tony. A domani.